Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Signori, fece Jussac, con molto rincrescimento vi dichiaro che la cosa è impossibile. Il nostro dovere innanzitutto, su via, rinfoderate le spade e seguiteci. Signore, intervenne Aramis parodiando Jussac, con grande piacere obbediremmo al vostro grazioso invito se ciò dipendesse da noi, ma purtroppo la cosa è impossibile. Sieur de Tréville ce l'ha proibito. Andatevene per la vostra strada, è il meglio che possiate fare. Quella canzonatura esasperò Jussac. Vi daremo addosso se non obbedite, rispose. Sono cinque, sussurrò Athos, e noi tre soltanto. Saremo di nuovo battuti e ci toccherà morire qui perché, lo dichiaro, io non ricompaio vinto davanti al capitano. Immediatamente Porthos e Aramis gli si strinsero dappresso, mentre Jussac allineava i suoi. Quell'attimo bastò a D'Artagnan per prendere la sua risoluzione. Era uno di quei casi che decidono della vita d'un uomo. Era una scelta da fare tra il re e il cardinale. Fatto tale scelta, bisognava perseverarvi, battersi, ossia disubbidire alla legge, ossia rischiare la testa, ossia diventare d'un tratto il nemico d'un ministro più potente del sovrano stesso. Ecco ciò che intravide il giovane e, diciamolo a sua lode, non esitò un secondo. Volgendosi pertanto ad Athos e ai suoi amici, disse: signori, vorrei precisare, vi prego, le vostre parole. Avete detto che eravate tre soltanto, ma a me pare che siamo quattro. Ma non siete dei nostri, fece Porthos. È vero, rispose D'Artagnan, non ho l'abito, ma ho l'animo. Il mio cuore è moschettiere, lo sento, signore, e ciò mi sprona. «Come vi chiamate, ragazzo mio?» chiese Athos. «D'Artagnan, signore!» «Ebbene!» gridò Athos. «Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, avanti!» «Dunque, signori, volete decidervi sì o no?» gridò per la terza volta Jussac. «Già fatto, signori!» rispose Athos. «Cosa decidete?» chiese Jussac. «Avremo l'onore di darvi addosso», rispose Aramis, togliendosi il cappello con una mano e traendo con l'altra la spada. «Ah!» esclamò Jussac. «Resistete! Perbacco! Vi stupisce?» E i nove combattenti si scagliarono gli uni sugli altri con una furia che non escludeva una certa tattica. Athos si scelse un certo Cahusac, favorito del cardinale, a Porthos toccò Biscarat e Aramis si vide di fronte due avversari. Quanto a D'Artagnan, si trovò proiettato contro Jussac in persona. Il cuore del giovane guascone batteva tanto da spezzargli il petto, non di paura, Dio ne guardi, non ne aveva neppure l'ombra, ma di emulazione. Si batteva come una tigre furibonda, aggirando 10 volte l'avversario, cambiando 20 volte le posizioni e il terreno. Jussac era, come si diceva allora, un goloso della lama ed espertissimo. Tuttavia stentava non poco a difendersi da un avversario che, agile e balzante, si scostava ogni momento dalle regole, attaccando da ogni lato contemporaneamente, eppure parando come uno che ha il massimo rispetto della propria pelle. Quel duello, insomma, finì con lo spazientire Jussac, furente d'essere tenuto in scacco da quello che aveva considerato un bambino. Si riscaldò e cominciò a commettere sbagli. D'Artagnan, il quale in mancanza di pratica era esperto in teoria, raddoppiò l'agilità. Jussac, per finirla, vibrò all'avversario un colpo tremendo con un affondo, ma questi parò di prima, e mentre Jussac si rialzava, sgusciando come una serpe sotto la sua lama, lo trapassò con la spada. Jussac stramazzò come un masso. Secondo le leggi del duello di quel tempo, D'Artagnan poteva soccorrere qualcuno. Mentre con gli occhi cercava tra i compagni quello che aveva bisogno d'aiuto, colse un'occhiata di Athos, che era d'un'eloquenza straordinaria. Athos sarebbe morto piuttosto che invocare soccorso, ma poteva guardare e con lo sguardo chiedere appoggio. D'Artagnan lo intuì, fece un balzo terribile e piombò sul fianco di Cahusac, gridando: «A me, guardia! Vi uccido!» Cahusac si voltò, era tempo. Athos, solamente sorretto dal suo estremo coraggio, stramazzò su un ginocchio. «Per Dio!» gridava Athos a D'Artagnan. «Non uccidetelo, giovanotto, ve ne prego! Ho da regolare con lui un vecchio conto. Quando sarò guarito e in buona salute, disarmatelo soltanto, levategli la spada, ecco! Bene, benissimo!» Tale esclamazione fu strappata da Athos dalla spada di Cahusac, schizzata a 20 passi da lui. D'Artagnan e Cahusac si slanciarono insieme, uno per riafferrarla, l'altro per impadronirsene, ma D'Artagnan, più svelto, giunse primo e vi mise il piede su. Cahusac corse accanto alla guardia uccisa da Aramis, gli prese la spada e volle tornare da D'Artagnan, ma la strada gli venne tagliata da Athos. In quel respiro d'un attimo, procuratogli da D'Artagnan, egli aveva ripreso fiato, e nel timore che quest'ultimo gli uccidesse il nemico, voleva ricominciare il duello. D'Artagnan capì che sarebbe stata una scortesia non lasciarlo fare ad Athos. Difatti non passarono che pochi secondi, e Cahusac cadde con la gola trapassata da una sciabolata. Nello stesso istante, Aramis poggiava la spada sul petto dell'avversario abbattuto e lo costringeva ad arrendersi. Restavano Porthos e Biscarat. Il primo, con 1000 fanfaronate, chiedeva all'altro che oramai potesse essere. Gli faceva i complimenti sulla compagnia che il fratello aveva testé ottenuto nel reggimento di Navarra, ma pur tra i motteggi non riusciva ad avvantaggiarsi. Biscarat era uno di quegli uomini di ferro che cadono soltanto morti. Tuttavia bisognava finirla. La ronda poteva capitare a restare tutti i duellanti, feriti o no, realisti o cardinalisti. Athos, Aramis e D'Artagnan circondarono Biscarat e gli ingiunsero di arrendersi. Benché solo contro tutti e con una sciabolata alla coscia, questi voleva resistere, ma Jussac, che si era rialzato sul gomito, gli gridò di arrendersi. Biscarat era un guascone come D'Artagnan, fece il sordo e si limitò a ridere, e fra due parate trovò il tempo di tracciare per terra con la punta della spada un segno e, parodiando un versetto della Bibbia, disse: «Qui morrà Biscarat, unico di quelli che sono con lui. Ma sono 4 contro di te, finiscila, te lo ordino!» «Se lo ordini è diverso», disse Biscarat. «Sei il mio brigadiere. Devo obbedire». E con un balzo all'indietro spezzò la spada sul ginocchio per non consegnarla, ne gettò i tronconi oltre il muro del convento e incrociò le braccia fischiettando un'aria cardinalista. La prudenza è sempre rispettata, anche in un nemico. I moschettieri salutarono Biscarat con le spade, quindi le ringuainarono. D'Artagnan fece altrettanto, poi, aiutato da Biscarat, l'unico rimasto in piedi, portò sotto il portico del convento Jussac, Cahusac e quell'avversario di Aramis che era soltanto ferito. Il quarto, come già abbiamo detto, era morto. Dopodiché suonarono la campana e, portandosi via 4 spade su 5, s'avviarono giubilanti verso il palazzo di Monsieur de Tréville. Avanzavano a braccetto, occupando tutta la larghezza della strada. Il cuore di D'Artagnan nuotava nell'ebbrezza. «Se non sono ancora un moschettiere», disse ai suoi nuovi amici, «perlomeno sarò ammesso come allievo, vi pare?» Il duello fece grande scalpore. Monsieur de Treville rimproverò aspramente i suoi moschettieri ad alta voce e li complimentò a voce bassa. Ma siccome non c'era tempo da perdere per avvertire il re, s'affrettò ad andare al Louvre. Era già troppo tardi, il re s'era appartato con il cardinale e fu detto a Treville che il sovrano stava lavorando e in quel momento non poteva riceverlo. La sera Treville si presentò alla partita del re. Sua maestà vinceva e, poiché era avarissimo, era d'umore eccellente. Quindi, come ebbe scorto di lontano Treville, disse: «Venite qua, signor capitano, venite che vi rimproveri. Sapete che sua eminenza è venuto a lagnarsi dei vostri moschettieri e con tale veemenza che stasera non sta bene? Diamine, ma sono dei diavoli a quattro, pendagli da forca questi vostri moschettieri!» «No, sire», rispose Treville, che capì immediatamente quale piega avrebbe presa la faccenda, «no, tutt'altro, sono buona gente, miti come agnelli che hanno un unico desiderio, lo garantisco, quello di sfoderare la loro spada soltanto per servire vostra maestà. Ma che volete? Le guardie del cardinale li provocano di continuo per attaccar briga e l'onore stesso del corpo costringe quei poveri ragazzi a difendersi.» «Ma sentite questo Treville», disse il re, «sentitelo un po'. Si direbbe che parli di una comunità religiosa. Davvero, caro capitano, ho voglia di togliervi il brevetto e di darlo a Mademoiselle de Chemereau, alla quale promisi un'abbazia. Non penserete però che vi creda così sulla parola. Mi chiamano Luigi il Giusto, siete Treville, e fra poco vedremo. Ma è proprio perché confido nella vostra giustizia, sire, aspetterò con calma e pazienza il beneplacito di vostra maestà. Allora aspettate, signore, aspettate. Non vi farò attendere troppo.» Difatti le sorti mutavano e siccome il re cominciava a perdere quanto aveva guadagnato, non gli dispiaceva trovare un pretesto per fare, s'accetti questa espressione da giocatore la cui origine, lo confessiamo, ci è ignota, per fare Carlomagno, cioè ritirarsi. Dopo un momento, infatti, si alzò e, intascando il danaro che gli stava davanti, in gran parte frutto della vincita, disse: «La Vieville, prendete il mio posto. Devo parlare a Monsieur de Treville di una questione importante. Ah, avevo 80 Luigi davanti a me. Mettete la stessa somma perché i perdenti non abbiano a lamentarsi. La giustizia prima di tutto.» Quindi, rivolgendosi a Treville e avviandosi con lui verso il vano di una finestra, continuò: «Ebbene, signore, voi dite che sono state le guardie dell'Eminentissimo a provocare i vostri moschettieri?» «Sì, sire, come sempre.» «E com'è andata la faccenda, su via? Voi lo sapete, caro capitano, un giudice deve ascoltare le due parti. Nel modo più semplice e naturale, tre dei miei migliori soldati, che vostra maestà conosce di nome per averne apprezzato più di una volta la fedeltà e ai quali, posso affermarlo davanti al re, sta molto a cuore servirlo, tre dei miei migliori soldati, dico, Athos, Porthos e Aramis, avevano combinato una scampagnata con un giovane cadetto di Guascogna che io avevo raccomandato loro quella mattina. Il luogo doveva essere, credo, Saint-Germain, e si erano dati appuntamento ai Carmes Deschaux, quando vennero disturbati da Monsieur de Jussac, da Cahusac e Biscarat e da due altre guardie che certamente non capitavano là in compagnia così numerosa senza cattive intenzioni verso gli editti. «Già, già», disse il re, «mi fate pensare che senz'altro vi andavano per battersi. Io non li accuso, sire, ma lascio giudicare a vostra maestà quel che potessero andare a fare cinque uomini armati in un luogo così solitario come i paraggi del convento dei Carmi. Avete ragione, Treville, avete ragione. Allora, quando hanno visto i miei moschettieri, hanno cambiato idea dimenticando i loro rancori personali per il rancore di corpo, perché vostra maestà non ignora che i moschettieri, i quali appartengono al re e al re soltanto, sono i nemici naturali delle guardie che appartengono al cardinale. Sì, Treville, sì, disse il re malinconicamente, ed è tristissimo, credetemi, vedere così due partiti in Francia, due teste a regnare. Ma tutto questo finirà, Treville, tutto questo finirà. Dunque voi dite che le guardie hanno provocato i moschettieri. Dico che probabilmente le cose sono andate così, ma non ci giuro, sire. Voi sapete quanto sia difficile conoscere la verità, e a meno di non essere dotato di quell'istinto ammirevole per cui Luigi XIII è chiamato il giusto, avete ragione, Treville. Ma i vostri moschettieri non erano soli. C'era un ragazzo con loro. Sì, sire, e un ferito. Di modo che tre moschettieri del re e un ragazzo non solo hanno tenuto testa a cinque delle più temibili guardie del cardinale, ma anzi, ne hanno stese a terra quattro. «Ma questa è una vittoria!» esclamò il re raggiante. «Una vittoria completa!» «Quattro uomini, di cui uno ferito», disse il re. «E un ragazzo, avete detto», disse Treville. Un giovinetto appena, il quale anzi si è comportato talmente bene in questa circostanza che mi prenderei la libertà di raccomandarlo a vostra maestà. Come si chiama? D'Artagnan, sire. È il figlio di uno dei miei più vecchi amici, il figlio di un uomo che ha fatto la guerra civile col re, vostro padre, di gloriosa memoria. E voi dite che si è comportato bene questo giovanotto. E raccontatemi tutto, Treville. Sapete che mi piacciono i racconti di guerra e di combattimenti. E il re Luigi XIII si arricciò fieramente i baffi assumendo un atteggiamento marziale. Continuò Treville. Sire, come vi ho detto, Monsieur D'Artagnan è quasi un ragazzo e poiché non ha l'onore di essere moschettiere, era in borghese. Le guardie del cardinale, avendo visto la sua estrema giovinezza e per di più che non apparteneva al corpo, lo invitarono a ritirarsi prima di attaccare. «E allora vedete, Treville», interruppe il re, «che sono stati loro ad attaccare, giusto, sire? Nessun dubbio, quindi. Gli intimarono di ritirarsi, ma l'altro rispose che in cuor suo si sentiva moschettiere, ligio a sua maestà, e quindi sarebbe rimasto con i signori moschettieri». «Bravo ragazzo», mormorò il re. «Difatti rimase con loro, e vostra maestà ha un così valido campione che fu lui a sferrare a Jussac quella terribile stoccata che ha mandato su tutte le furie il cardinale. È stato lui a ferire Jussac», esclamò il re. «Lui? Un bambino? Ma è impossibile, Treville! E come ho l'onore di dire a vostra maestà! Jussac, una delle prime lame del regno! Ebbene, sire, ha trovato il suo maestro. Voglio vedere questo giovanotto, Treville. Voglio vederlo, e se si può fare qualcosa, ebbene, ce ne occuperemo. Quando vostra maestà si degnerà di riceverlo domani a mezzogiorno, Treville. Lo condurrò qui da solo? No. Portatemeli tutti e quattro. Voglio ringraziarli tutti insieme. Gli uomini devoti sono rari, Treville, e bisogna ricompensare la devozione. A mezzogiorno, sire, saremo al Louvre. Ah, a proposito, per la scala piccola, Treville, per la scala piccola. È inutile che il cardinale sappia. Bene, sire. Voi capite, Treville, un editto è sempre un editto, in fin dei conti. È proibito battersi. Ma questo scontro, sire, non ha niente a che vedere coi soliti duelli. È una rissa. Prova sia che erano 5 guardie del cardinale contro i miei moschettieri e Monsieur d'Artagnan. Giusto, ammise il re. Ma non importa, Treville. Comunque, venite dalla scala piccola. Treville sorrise. Ma siccome era già molto per lui avere ottenuto che quel fanciullo si ribellasse a suo padrone, salutò rispettosamente il re e con il consenso di lui si congedò.